Scuola in controluce. Voglia di fuggire dall'Italia? Aumentano i ragazzi che vogliono studiare all'estero. Ne parleremo fra pochissimo per capire se questo può essere considerato un buon segno oppure un brutto segno. Prima però, vista la giornata davvero molto particolare, quella di oggi, giornata in cui sapremo chi andrà a comporre il nuovo Parlamento e quindi chi farà la politica dei prossimi anni, prima dicevamo, vogliamo cominciare la puntata con le parole di Salvatore Giuliano. Giuliano è un preside, perché abbiamo scelto lui? Perché non è un preside qualunque. La sua scuola è l'ITIS Maiorana di Brindisi. Noi l'abbiamo già ospitato qui su Radio 24 perché ha avuto un'idea geniale dal nome Book in Progress. I libri li scrivono i professori della scuola a modi fascicoli, così li possono poi modellare sulle esigenze specifiche dei loro studenti. Costo totale 25 euro. Un'idea piccola ma di per sé geniale. E ora Giuliano, che è uno molto attivo, sta preparando con i colleghi proprio un manifesto per la scuola. Primi punti: valorizzazione del personale della scuola, investimenti in nuove tecnologie, edilizia scolastica. E allora sentiamolo il messaggio di Giuliano alla classe politica che uscirà oggi dalle urne. La nostra scuola per troppo tempo è restata sempre indietro. Chiediamo al nuovo Parlamento di considerare la scuola come una priorità e non come purtroppo è stato per diversi anni, un commissariamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E se così non fosse, che cosa rischia la nostra scuola? La nostra scuola rischia di mandare sprecate molte risorse che ci sono già nella scuola, e mi riferisco a tanti dirigenti, docenti, personale amministrativo che rappresentano l'eccellenza, però ecco, sicuramente bisognerebbe affidar loro maggiori risorse per poter far emergere la nostra scuola a livello mondiale. Ritengo che ce la si possa fare. Una ricerca di scuola.net fatta invece fra i ragazzi dice che la priorità fondamentale è quella della digitalizzazione della scuola, secondo posto alternanza scuola-lavoro in tutti gli indirizzi, terzo edilizia scolastica, quarto scuola come centro di aggregazione, cioè la scuola che secondo gli studenti deve diventare anche un centro aperto al pomeriggio dove svolgere attività ricreative, extrascolastiche e sportive. Si riconosce in questo altro manifesto, potremmo chiamarlo, degli studenti? Assolutamente sì, il punto prioritario che hanno individuato i ragazzi, cioè vale a dire le nuove tecnologie, inglobano tutti gli altri, perché le nuove tecnologie dovrebbero servire a cambiare il modo di fare scuola ed è evidente anche a considerare la scuola a disposizione del territorio, non solo per le ore curriculari. I ragazzi hanno profondamente ragione. I ragazzi forse meritano anche un po' di più? Assolutamente sì, i ragazzi sono la nostra risorsa, questo glielo dice chi sta con loro gran parte della giornata. È evidente che, almeno leggendo un po' i programmi politici di tutti gli schieramenti, la scuola non è rientrata fra le priorità di questo paese. E così i nostri ragazzi, trascurati dalla classe politica, forse pensano di andare da qualche altra parte. La notizia è questa: aumentate del 25% quest'anno le domande per studiare all'estero. 6.300 i ragazzi delle scuole superiori che hanno chiesto di partecipare alle selezioni per uno dei 1.800 posti messi a disposizione dall'Associazione Intercultura, con un aumento del 25% rispetto all'anno scorso. Finalmente i nostri ragazzi non sono più mammoni, oppure in un'Italia in piena crisi economica e incapace di valorizzare i giovani, molti studenti guardano con interesse ad una vita all'estero. Ne parliamo con Roberto Ruffino, segretario generale di Intercultura. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ve l'aspettavate questo 25% in più? Non ci aspettavamo il 25%, ma ci aspettavamo sicuramente una crescita, perché non è un fenomeno di quest'anno, sono ormai 5-6 anni che c'è una crescita più o meno segnata. Chi sono questi ragazzi che vogliono andare, lo ricordiamo, a seguire, non è detto che sia tutto l'anno scolastico, ma insomma parte dell'anno scolastico all'estero? Una buona metà di loro vanno a seguire l'intero anno scolastico all'estero e l'altra metà va o per un semestre o per un trimestre, per periodi più brevi, ma comunque sempre con programmi di lunga durata rispetto alle vacanze estive così di 2 settimane in un altro paese, e soprattutto individualmente, cioè non vanno in gruppo, non vanno con gli amici, ma vanno a vivere con una famiglia, a frequentare una scuola. Una full immersion. In ogni caso un'esperienza impegnativa. Assolutamente, assolutamente. E chi sono questi ragazzi? Sono soprattutto liceali? Da dove arrivano? Sono ragazze? Sono di tutta Italia. Direi che ormai la distribuzione è abbastanza bilanciata tra nord, centro, sud e isole. sono in prevalenza ancora dai licei, anche perché negli istituti tecnici professionali molte volte non è incoraggiata il soggiorno all'estero di lunga durata, in quanto si insegnano materie molto specifiche che non hanno il corrispondente in una scuola estera, e questo può creare qualche problema al ritorno. Comunque anche dalle scuole tecniche professionali abbiamo parecchi candidati. E dove abbiamo una valanga di donne, questo. Le ragazze sono sempre più intraprendenti, oltre che più brave a scuola, diciamolo, perché tutti i test, tutte le analisi lo confermano. Sono più brave a scuola. Sono più intraprendenti, penso. A quell'età hanno più voglia di mettersi in gioco, di esporsi, per cui abbiamo quasi 2/3 di candidati donne rispetto a poco più di 1/3 di candidati uomini. E dove vanno questi ragazzi? Ci sono dei paesi che tirano di più quest'anno? Ma vanno in tutto il mondo, noi li mandiamo in 60 paesi diversi, più o meno il 45% va in Nord o Sud America, divisi più o meno allo stesso modo, 22-23% in Sud America e altrettanti in Nord America. Circa 1/3, un 36-37% vanno in Europa e gli altri vanno in paesi asiatici o in Australia, Nuova Zelanda. E i paesi asiatici e i paesi dell'America Latina sono in netta crescita, mentre la richiesta per gli Stati Uniti, per esempio per il Canada, è pur sempre molto alta, ma ha raggiunto un certo tetto ormai da parecchi anni a questa parte. Quindi insomma tirano i paesi in ascesa, poi, no? Anche economica. Tirano i paesi in ascesa, sì, penso che... Ragazzi sono furbi, guardano forse anche oltre il loro diploma, no? Per capire, per imparare una lingua innanzitutto, ma anche forse per fare un'esperienza che potrebbe essere utile poi per la loro vita lavorativa. Penso che questa sia una delle ragioni per cui il numero sta crescendo. Un'altra ragione sicuramente è che sono aumentate molto le borse di studio, cioè devo dare atto che per esempio le aziende italiane negli ultimi 10 anni hanno cominciato ad investire in questo settore per dare ai giovani la possibilità di farsi una formazione internazionale, probabilmente perché ci sono resi conto che poi questi ragazzi con quel tipo di formazione sono un buon investimento per le aziende negli anni a venire. Se ce la facciamo a tenerceli poi in Italia, insomma, se non fuggono all'estero. Se le nostre aziende non se le lasciano scappare, sicuramente hanno delle buone possibilità anche da noi. Andrea Lemanno, Group Director di Ipsos, buongiorno. Buongiorno. Perché questi ragazzi vanno all'estero? Insomma, intanto diciamo che il dato è anche positivo, perché sono anni e anni che diciamo che i nostri ragazzi restano vicino a casa, vogliono restare con la mammina. In realtà poi vediamo che la realtà è molto più eterogenea, ci sono tanti ragazzi che non si spaventano ad andare all'estero anche per un intero anno scolastico, e parliamo di ragazzini poi di 17 anni, quindi davvero anche molto giovani. E lei che idea si è fatta, l'Ipsos, che idea si è fatta di questi ragazzi che vogliono andare all'estero? Chi sono e perché? Confermiamo il punto che è sicuramente un dato positivo, è un dato positivo che attesta dinamismo, attesta anche una crescente maturità da parte di questi ragazzi, non ci vedo nulla di negativo, non credo che vadano per fuggire dall'Italia, credo che vadano animati da spirito di scoperta, di avventura. E sono di solito persone un pochino più mature forse della media dei propri compagni di classe e che hanno un tratto di curiosità nel proprio DNA. Ecco, siamo sicuri che sono ragazzi che poi magari vogliono anche maturare un'esperienza lavorativa all'estero, però insomma a me questo dato mi ha un po' spaventato. Siamo sicuri che non siano ragazzi la cui crisi economica che respirano qui in Italia vogliano poi, guardano un po' oltre confine per restarci? Sì e no, io direi di no, nel senso che non penso siano spinti dalla crisi economica, penso siano spinti dalla curiosità e dal fatto che il mondo gli è molto più familiare e comune rispetto ai ragazzi di 10, di 20 o di 30 anni fa. Questi ragazzi hanno tutti già preso l'aereo, sono già stati tutti all'estero, cosa che anni prima non era comune, e adesso sono anche più connessi, cioè il distacco dalle famiglie è sempre meno traumatico via via che la tecnologia e i voli low cost ci consentono di rimanere in contatto molto più facilmente. Quindi direi di no, direi che forse le informazioni gli hanno aumentato la curiosità sul resto del mondo. Sono forse più cittadini del mondo, non sono in fuga. Perfetto, e questo è molto rassicurante, perché invece io un sospettino ce l'avevo. Grazie mille ad Andrea Lemanno, Group Director di Ipsos, a Roberto Ruffino, segretario generale di Intercultura. Lo voglio ricordare, Intercultura, Alemanno l'ha anche citato, è impegnato in questi giorni nella preparazione di un convegno molto interessante che si terrà da giovedì a Firenze. Il titolo è Il corpo e la rete. Cercherà proprio di capire come i social network, il fatto insomma che i ragazzi siano sempre connessi fra loro a prescindere dal luogo in cui si trovino, stia cambiando anche il modo di stare all'estero, di stare in Italia. Insomma, se i ragazzi vanno in Cina, poi però invece di fare amicizia con i ragazzi cinesi restano tutto il giorno a chattare con gli amici italiani, insomma l'esperienza perde in qualche modo di senso. Quindi in bocca al lupo per questo convegno così interessante. In chiusura vi ricordo che questa settimana scadono i termini per l'iscrizione alla prima classe in ogni ordine di scuola. Ne abbiamo parlato tanto qui su Radio 24. Il termine infatti è fissato al 28 febbraio, e quello resta perché il ministro dell'istruzione uscente Profumo ha fatto sapere che non ci saranno proroghe, anche se quest'anno ha debuttato l'iscrizione telematica, che qualche piccolo problemino l'ha anche causato. In questo paese bisogna rispettare le date, ha spiegato Profumo, e un po' ci piace questo suo richiamo al rispetto delle regole, da noi un po' inconsueto. Vi ricordo che sulla pagina di Scuola in Controluce sul sito di Radio 24 potete riascoltare, proprio a proposito delle iscrizioni, il nostro speciale dedicato alla scelta delle superiori dopo le medie, un po' lo scoglio più importante. I nostri consigli, consigli degli esperti, dei professori, dubbi dei genitori e dei ragazzi stessi, dunque li potete riascoltare su radio24.it, la pagina di Scuola in Controluce. Maria Piera Ceci vi saluta, Scuola in Controluce torna lunedì, domani invece alle 13.30, Italia in Controluce. Scuola in Controluce.